Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mi ha detto sei un vecchio cazzone. Quindi? No, penso di no. Punto. Mi sembrava razzista anche questo. Quanta cattiveria in questa società. Ma io non mi sono accorto da avergli detto qualcosa negli spogliatoi, ho chiesto subito scusa, lui era contrariato, però penso che domani accetterà le scuse e mi aspetto anche lui si scusi, perché una persona viene a chiedersi scusa, solitamente da uomini di sport si dovrebbe accettare e finire tutto. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali. Gli spogliatoi sono andato a cercarlo, eh. E lui ha detto: ah, ti chiedo scusa, non mi devi chiedere scusa, ti devi vergognare. Perché uno che pronuncia quelle parole, in Inghilterra non avrebbe più neanche messo in campo in un campo d'allenamento. Quindi io non parlo della partita. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti. Allora io devo subito denunciare un fatto increscioso appena accaduto via SMS. Che è successo? C'è un SMS che recita: perché Platero è innamorato pazzo di Obama? È gay? Domanda un anonimo ascoltatore. Ciao Giuseppe Cruciani. Ciao. Chi c'è? Pardo. Oh. Senti che telefono, come suono. Senti che linea. Mamma mia, che è successo oggi? It's unbelievable, you know, I tried Skype. Con Skype. Collegamento via Skype. Non è la prima volta. Via Skype. Ogni tanto capita un po' nei giorni metallico, però vabbè. Nei giorni buoni ogni tanto. Metallico. Ogni tanto capita. Ragazzi, l'intero arco istituzionale, social, culturale, sportivo. Sì. Ho detto anche politico, no, lo aggiungo. Tutti hanno qualcosa da dire su una verdura buonissima come il finocchio. Vabbè, ragazzi, ma è normale che tutti si pronunciano. Beh, no, però devo dire che invece no, perché ieri sera, per esempio, Pioli e Allegri hanno usato enorme prudenza. Proprio della serie, io non c'ero, se c'ero dormivo. Sì. Li capisco, perché è facilissimo essere presi per la giacchetta, ci mancherebbe altro. Però, tutti e due si aspettavano la domanda e tutti e due sono stati molto bravi nel fare 0-0. Come in qualche modo era prevedibile, perché insomma stiamo parlando del mondo del calcio che spesso ha paura, certo, delle domande, vuole, certo, evitarsi guai. Certo. Ti capisco perfettamente. Chi non ha paura è, ad esempio, Silvio Berlusconi. No, ma sono cose che sul campo possono accadere. È sbagliato metterle anche sui giornali, renderle pubbliche sul campo. Quindi è sbagliato Mancini a parlarne? Penso di sì, assolutamente. No. Quindi ha la stessa idea di Sarri, l'ex premier? Beh, mi sembra di sì, no? Sì. Mi sembra di sì. Un'idea un po' retrograda, secondo me. Dall'altro canto. Berlusconi non è un ragazzino, dall'altra parte. Però, Maurizio Sarri si è comportato da cavernicolo, col massimo rispetto per i nostri illustri antenati. Poi ha peggiorato le cose dicendo appunto che i panni sporchi restano in campo. Però io devo dire, la mia posizione è questa: a me è piaciuto pochissima anche la crudeltà di Roberto Mancini, che le mutande sporche le ha portate in televisione, sapendo di fucilare sportivamente e pubblicamente, in maniera forse definitiva, la reputazione e magari la carriera di un collega che aveva fatto una colossale stronzata. Sì, ma voi siete troppo dietrologi su questa cosa. Cioè, voi pensate davvero che Mancini che succede? Pardo che è caduto. Cioè, voi pensate davvero che Mancini esce dal campo e pensa a quel punto: guarda, io colgo l'occasione per far fuori Sarri, per sputtanarlo pubblicamente, per metterlo al pubblico ludibrio. Tu pensi sia impossibile? Ma no, ma attribuite troppa strategia a queste cose. Si è sentito di fare così perché probabilmente posso dirti. La strategia non c'è. Io sono dell'idea che Mancini non abbia architettato a tavolino una cosa per buttare fango su un avversario nella corsa a scudetto. Questa ipotesi complottistica mi lascia può anche darsi che lui dice: adesso gliela faccio pagare, così viene crocifisso in tutta Italia e ne approfittiamo e magari il Napoli ha qualche danneggiato della corsa a scudetto, cioè. Gliela faccio pagare perché sono incazzato per quello che mi ha detto, non gliela faccio pagare perché ho un piano a tavolino per poter indirettamente la cosa, come dire, no, provoca nel Napoli comunque il sì, Napoli creare... il al Napoli di là della corsa a scudetto, l'immagine di Sarri, cioè Sarri si porterà addosso questa macchina, sì, questa storia per sempre. Sì, questo siamo d'accordo, no? sicuramente, per un po' sicuramente, però io quello che dico è che se veramente si ha a cuore il problema, cioè se veramente si ha a cuore che non esiste il problema, qual è il problema? Vabbè, comunque no, la discriminazione, se ragazzi, si ha a cuore, allora fatto... Mancini oggi va bene tutto, io ho difeso Mancini, dico che ha fatto bene ad andare a raccontare questa cosa, bene, benissimo, perché il calcio è un posto omertoso e quando qualcuno squarcia l'omertà a me va bene, quando qualcuno va a dire quello che succede a me va benissimo, però non sopporto quello che oggi ha detto Mancini a Repubblica, lo trovo insopportabile, cioè il fatto di attribuire alle parole di Sarri una influenza sul suicidio dei giovani omosessuali, di ragazzi omosessuali, è semplicemente ridicolo. Nessuno si è mai suicidato perché gli è stato detto frocio. Naturalmente qualcuno può essersi in casi rari suicidato se viene perseguitato da questo punto di vista, casi di bullismo eccetera eccetera, emarginazione, tutto quello che vogliamo, giustamente come dice Pardo, discriminazione. Il problema della discriminazione nei confronti degli omosessuali è evidente che esiste, esiste pure il contrario, qualcuno dice, no, la famosa lobby gay, ma il punto è un altro, cioè il punto è che quelle frasi dette in maniera insultante sono sbagliate, tutto parte da lì e da lì, esatto, bisogna il punto è anche che è cambiato molto, perché ieri per esempio il mio amico Sandro Sabatini a Premium ha fatto rivedere il famoso episodio di Mihajlović Vieira, quello nel quale Mancini mi ha detto adesso si è scatenata la cosa più impressionante, la cosa più impressionante è il linguaggio. Nel senso che Mihajlović si difende dicendo: è vero, gli ho detto scimmia, gli ho detto negro, ma perché lui mi ha detto zingaro. Sì, cioè sono espressioni, e parliamo di 15 anni fa, allora, 14 però, anni fa. Che sia cambiato qualcosa, non c'è dubbio, per fortuna. Però io dico un'altra cosa. Che lì c'è un altro elemento nella difesa di Mancini, nel fatto che Mancini difese Mihajlović all'epoca e poi ha in qualche modo ha cambiato idea, raffinato il suo pensiero sullo striscione nei confronti dei tifosi del Napoli da parte dei tifosi dell'Inter, ha minimizzato. Che cosa c'è? C'è un elemento molto semplice, che è quello della difesa della propria parrocchia. Cioè quando si tratta, tu puoi anche aver ucciso qualcuno, però intorno a te la tua squadra, non dico che ti difende, però cerca sempre qualche giustificazione. È quello che succede spesso anche nel mondo del calcio. Cioè Mancini all'epoca difendeva la Lazio come difese i tifosi dell'Inter nel caso dello striscione, e in questo caso i napoletani difendono Sarri. È così, cioè, purtroppo c'è la difesa della propria parrocchia, cioè di fronte ad errori, perché quello di Sarri è un errore, ma è un errore anche per il Napoli, non solo per quello che ha detto, è un errore per il Napoli, perché io sono convinto che il silenzio di De Laurentiis di questi giorni sia frutto del fatto che De Laurentiis è incazzato nero. Cioè De Laurentiis si è incazzato per il fatto che il Napoli tutto aveva bisogno tranne che di tirarsi addosso anche perché poi De Laurentiis è un uomo di mondo, è un uomo di cinema, sicuramente uno che non le manda a dire, e avrà usato anche lui ogni tanto queste espressioni, ma è un uomo che conosce come vanno le cose e non ha piacere che il suo allenatore passi come un omofobo, diciamo la verità. Io sono convinto anche che De Laurentiis oggi, dopo la comunicazione della squalifica di Sarri, che cosa può che darsi che dica oggi, qualcosa. Oggi qualcosa sì ma difenderà dicendo che c'è stato un accanimento eccessivo, è tutto già scritto, aspettiamo di non capire, dirà che una cosa... parola contro Sarri, su questo non c'è dubbio, altrimenti sarebbe un pazzo. Io sono sicuro che però pensa che ha ricevuto un danno da parte del suo allenatore. Sì, allora ci fermiamo per il traffico, 800240024, poi arriva chi oggi ha scritto un articolo dal titolo La Volpe Mancio. Sarri ha toppato con le frasi omofobe, il mister dell'Inter ne ha approfittato cavalcando il politicamente corretto per destabilizzare il lanciatissimo Napoli. A dopo. Tutti convocati. Tutti convocati. Altrettanto è evidente che oggi sì, non oggi ma già da ieri presto si è scatenata la caccia ai precedenti. Oggi c'è un'altra cosa che riguarda Mancini nel 2001. Nel 2001 è un frocio di merda ad Alessio De Ronc. Da Ronc della Gazzetta. Per un litigio che avevano avuto per storia di Fiorentina, non mi ricordo. Sì, per storia di Fiorentina, perché De Ronc aveva scritto una cosa su Amaral, giocatore Fiorentina che qualcuno si aspetta, scappato, lui l'ha chiamato fuori, ha detto voglio parlarti e si sono urlati addosso. E poi Mancini gli ha detto frocio di merda, e questo gli ha risposto, e poi è tenuta la security. Ma hanno fatto pace, poi ha chiesto scusa Mancini? Non lo so, proveremo a chiederlo a Darox se ci risponderà. Però il problema di questa cosa, che mi riguarda personalmente, è che molti mi chiedono, siccome ho detto delle cose ieri contro Sarri, adesso hai visto quello che è successo? Ma io non ho detto che... Cioè, se Mancini ha detto quelle robe lì, frocia di merda a Daronc, ha sbagliato. Cioè, se c'è... Allora ci dovrebbe raccontare adesso, questo sì, che probabilmente in questi anni, come dice Pardo, è cambiato qualcosa e anche la sua sensibilità, passando per l'Inghilterra, è cambiata. Il che è legittimo, cioè, se ha detto frocia in Inghilterra. Sono contesti diversi, perché quello lo dice in campo, quell'altro lo chiama da parte, eccetera, eccetera. Adesso non possiamo paragonare le due cose. Beh, comunque, fra l'altro, scusami, ma fra le due sarebbe più grave una cosa a margine di una conferenza stampa, di una cosa in campo. Sono gravi tutte e due. Per l'adrenalina, però... dici? Per l'adrenalina che c'è in campo? A me, onestamente, adesso non voglio fare, magari ci cadrò anch'io, ma, però insomma a me non mi verrebbe mai di usare quella parola, mi sento di poterlo dire. Magari gli direi... A Fio De, capito? Detto questo, sicuramente in campo c'è un elemento di adrenalina che può portare a delle esasperazioni. Vabbè, magari questo magari quello, è vero, scusa, per Luigi, magari tra i due c'era della ruggine, c'era l'adrenalina anche in quel caso. Adesso io non lo so. Bisogna togliere a questa vicenda. Capisco che per noi magari è facile, per i tifosi di Inter e Napoli è un po' diverso, però bisogna togliergli l'elemento del tifo, del campanile, e cogliere questa opportunità come possibilità per arricchirsi, per sensibilizzare. Questa è la sostanza. Sì, adesso, non è che da qui andiamo a sensibilizzare qualcuno nei confronti di qualcosa di cui parlano ogni giorno 50.000 giornali e 50.000 televisioni, cioè i gay, eccetera, eccetera. La cosa fondamentale da dire è che le parole di Sarri sono sbagliate, punto. Sì. Dopodiché, che succede? Pare che Sarri... L'intervento di Mancini invece è corretto. No, Mancini quando disse... Per me Mancini ha fatto benissimo, al di là delle teologie, andare davanti. Se Mancini nel 2001 ha detto delle cose uguali, Mancini adesso ci dovrebbe spiegare. Mi stupisce che oggi Repubblica non gliel'abbia chiesto, come non gli abbia chiesto conto dei precedenti. Ci dovrebbe spiegare che probabilmente anche la sua sensibilità nei confronti di queste cose, magari cambiata, passando dall'Inghilterra, è cambiata. Non c'è niente di male. Cambiata. Però allora a questo punto, nel momento nel quale Sarri chiede scusa di fronte a tutta l'Italia, fra cose pubbliche, cose private, tapiri, poi c'è un altro elemento che ieri ricordavo, Giuseppe, premesso che poi ognuno chiaramente nella vita vota quello che gli pare e ha una sensibilità come gli pare. Sarri fino a 48 ore fa era l'uomo della tuta, uno degli allenatori progressista, comunista. Questo però spada però un luogo comune, cioè il fatto che quelli di sinistra non possano dire frocio, finocchio a qualcuno che siano a favore del mondo omosessuale. Non voglio ricordarti come venivano trattati gli omosessuali sia a Cuba che in Unione Sovietica. Non vorrei fare un'analisi politica su Sarri, no, per dirti dell'operaio dell'Ital Sider sia più diciamo di area radicale e quindi liberale in materia di diritti civili o più di area invece vecchia staliniana. Skype, è meglio il telefono che non funziona. No, meglio Skype. Piero Milano, buongiorno. Buongiorno, premessa, Sarri ha sbagliato, attenuante, diciamo era in un contesto... Di transagonistica, ma è una cazzata questa qua. Ma quale transagonistica? Io in transagonistica non dico frocio e finocchio a qualcuno. Allora, detto questo, io penso che Mancini sia una persona furba. Il tratto essenziale di Mancini è la furbizia e la malizia. Si è trovato un'occasione per mettere in difficoltà un suo competitor a livello di campionato e l'ha presa a volo. Senza nessuna premeditazione a tavolino o varia, gli si è presentata l'occasione e comunque l'ha presa. E questo è quello che io penso. D'altro canto, però, quando qualcuno parla di omertosi nel mondo del calcio, questo è sicuramente vero, ma è altrettanto vero che l'omertosità esiste anche nel mondo del giornalismo. Pigliamo quello che è successo a Tiki Italia, quando il famoso direttore Mentana ha insultato di fatto un giornalista napoletano. Il Pulcinella d'Auriemma insultato, lo dice lei. E questo è quello che io ho percepito. Voglio dire, quando tu dici Pulcinella in quel tono là, voglio dire. Dov'è l'omertà? Scusa. È che nessuno, quanto se ne è parlato a confronto. Come quanto se ne è parlato? Anche troppo. Qui c'è il conduttore di Tiki Taka che lo può dire. Se ne è parlato sia in trasmissione che dopo. Ma di che stai parlando? Ma sì, no, tu di che stai parlando? Aspetta, Piero, abbiamo capito. Mi fai sentire il conduttore di Tiki Taka? Grazie. No, il problema di quella situazione lì è stata che quel Pulcinella detto da Mentana ad Auriemma è avvenuto e Auriemma lì per lì non ha reagito, non ha reagito nessuno nello studio, forse c'era anche il professor Cruciani, sì c'era in quella puntata, quindi te lo ricordi benissimo, perché è stato considerato non un insulto razzista, ma semplicemente il fatto di dire, giusto o sbagliato che sia, da parte di un giornalista, un altro giornalista, non fare la macchietta, non fare il tifoso, non fare il capopopolo, io questo... Questo e siccome lui è di Napoli, gli ha detto Pulcinella. E se avesse detto Arlecchino non c'era nessun problema. Ma no, io guarda, su questa cosa l'ho detto mille volte e lo ribadisco oggi. Napoli, purtroppo, ed è una vergogna, viene continuamente insultata negli stadi di tutta Italia. Ma da parte, non c'entra però con la vicenda. Aspetta, no, aspetta, aspetta. Da parte di persone assolutamente becere. Questo può portare in alcuni soggetti, fra l'altro Auriemma non l'ha mai... questa cosa non l'ha mai rivendicata particolarmente, può portare una certa sensibilità e ipersensibilità su questo argomento. Cioè, a me se mi dicono tutto diventa subito discriminazione territoriale, ma ripeto, il motivo c'è ed è un motivo becero, è il fatto che purtroppo, e ne assistiamo ogni settimana, Napoli purtroppo viene continuamente bistrattata, presa in giro e insultata, quindi da questo punto di vista questa ipersensibilità io la capisco, la comprendo e la condivido pure. Però, detto però questo, per qui usciamo da due persone, certo, qui usciamo appunto dal tema. Allora, quello che voglio dire io, Piero prima diceva una cosa molto precisa, Mancini ne ha deliberatamente approfittato per crearsi un vantaggio in corsa scudetto. Non è tanto questo il punto, quanto il fatto che Mancini abbia scientemente e lucidamente denigrato in questo modo pubblicamente un collega che se lo meritava. Non ha denigrato, ha raccontato una cosa, ha aggiunto delle sue considerazioni alla macchia sulla schiena per tutta la sua carriera. Ma non è se che lo la pronunciate Mancini quelle frasi, cioè la pronunciate lui quelle frasi, la colpa è di Sarri. Cioè, quindi si dice Mancini ha fatto, aveva detto nel 2001, sì benissimo, ma intanto oggi nel 2016, oggi nel 2016, nel gennaio del 2016, mentre si combatte comunque per fare certe cose in Italia, come è giusto che sia, sono pure contro questa roba qua che si sta facendo adesso, perché sono a favore del matrimonio e dell'adozione, c'è un allenatore di pallone che per insultare un suo collega, perché di questo si tratta, usa parole come frocio e finocchio in senso negativo. Anch'io uso la parola frocio, anch'io uso la parola gay, finocchio, tutte le uso, ma le uso per descrivere, per dire, perché anche i gay tra di loro si chiamano froci, tra di loro dicono la frocia, il frocio, non c'è nessun problema, a meno secondo me, a utilizzare questa parola. Qualcuno dice che non si può usare, per me si può usare tranquillamente, ma se tu gli dici a frocio, a finocchio, è evidente che è un insulto e per questo vai punito. Poi dopodiché, se non è stato punito quello prima, è un'altra cosa, cioè è un altro discorso. Dopodiché dicono anche che siccome Mancini non è gay, probabilmente prenderà due o tre giornate, che mi pare anche questa una puttanata, una pagliacciata nelle pieghe del regolamento che non vale la pena neanche di discutere. Roberto, provincia di Chieti. Sì, di Chieti veramente. Buongiorno a tutti. Io volevo dire che sono d'accordo con Cruciani al 100%. Però c'è una cosa che a me fa riflettere e che succede solo in Italia, a mio avviso, ne ho girato abbastanza. Cioè, il discorso è che quando uno sbaglia in Italia c'è sempre qualcuno che cerca di difenderlo o di buttare la palla fuori. Tipo l'assenteista del pubblico impiego, c'è sempre il sindacalista che è lì pronto a dare la colpa al dirigente. Cioè, se uno sbaglia, tifoso o non tifoso, non bisogna dirlo. Cioè, Sarri ha sbagliato e anche il tifoso del Napoli. Su questo, Roberto, credo siamo d'accordo sbagliato. Tutti. Però sento Auriemma che lo difende, che trova scuse, così come fa il sindacalista. No, non mi pare che Auriemma Auriemma dice che la transa agonistica, che Mancini ne ha approfittato, eccetera, eccetera, che ha chiesto scuse, la cosa deve finire qui, secondo lui. Però va bene, cioè, è una posizione legittima, per carità. Io dico semplicemente che va data una squalifica, secondo me, per quello che è l'usanza, diciamo, italiana, commisurata a quello che è successo. A me stanno benissimo due o tre giornate, cioè non penso che sia... Ragazzi, hanno messo in croce il povero Cassano, lo sa benissimo Pierluigi, per una frase detta in una conferenza stampa con la nazionale, quella un po' anche ridendo, scherzando, ridendo e scherzando, la disse Cassano. Cioè, ma di quella conferenza, Giuseppe, mi ricordo tutto perché ero presente sul posto e ti posso dire che il famoso comunicato della sera, anche un po' ridicolo perché insomma usava un linguaggio con delle parole che Cassano penso non l'abbia mai pronunciato nella sua vita, in cui si parlava della sua completa contrarietà a qualsiasi forma di omofobia, è nato perché a una certa ora io ho chiamato Antonio, gli ho detto: ma volete fare qualcosa? Ma qua è successo un casino. E lui non sapeva niente, perché lui era in assoluta buona fede, era convinto di aver scherzato senza aver insultato nessuno. Allora, premesso che l'ignoranza non scusa, ci mancherebbe altro. Questo vale però, anche per Sarri, no? Però questo può valere anche per Sarri, quello, no? Quello che mi dà più fastidio di questa storia qui è, come dicevo ieri, l'etichetta. Allora, Sarri ha sbagliato. Ha sbagliato perché c'è un malcostume che esiste da 20 anni fa più di oggi, dove siamo fortunatamente, grazie a Dio, più attenti al linguaggio e più politicamente corretti da questo punto di vista, su vicende che riguardano persone che sono ancora oggi purtroppo spesso discriminate. Quindi ha commesso un errore di natura proprio linguistica, culturale, perché magari è abituato a usare quella roba lì come un insulto, come fosse una parola non offensiva nei confronti dei diritti di qualcuno. Ma nel momento nel quale chiarisce la sua posizione verrà punito. Beh, c'è un precedente, insomma, a quel punto c'è un precedente qual su è? Sarri, Polivarese? Beh sì, c'è un precedente, cioè dire Sarri non è nuovo a queste uscite. Voglio dire, non è che basta chiedere scusi in alcuni casi. Uno deve dire: ho sbagliato, non userò queste espressioni perché sono espressioni insultanti. Che se gli avessi detto pezzo di merda, figlio di puttana, testa di C, eccetera, non sarebbe successo nulla. Zero. No, questo, sì, è evidente. Questo è evidente. Questo è evidente. Se tu dici a qualcuno pubblicamente, in un contesto pubblico, chiaro, con delle persone vicine, Napoli-Inter, prima in classifica, calcio, popolarità, eccetera, se dici a qualcuno Frocio, Finocchio, beh, amico mio, ma che di che ti sorprendi? Di che ti sorprendi? Però è sbagliatissimo, però ripeto, perché lui l'obiettivo lo intende come debole, femminuccia, impomatato, precisino, fighetta, usa un linguaggio che colpisce di più, perché gli dice Frocio, Finocchio, come se questa cosa qua offendesse Mancini, cosa che chiaramente non è così. Borsa, l'atmosfera è bella ma i bomboni non mancano mai. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Giuseppe Cruciani, qui con me, Pierluigi Pardo, meravigliosamente collegato con Skype. Che ogni tanto cade. Che ogni tanto cade, ma noi cade, lo, però lo riprendiamo. Dai, però c'è personalità. C'è su. Qualità, c'è qualità. C'è qualità. Qualità audio. E il signore che prima ho citato. Che Dolby Surround è troppo, è un po' eccessivo. Il signore che ho citato, che ha scritto su Libero. Citato addirittura, che? No, citato. Ho citato il titolo, non ho citato. Ah, uno. Il titolo hai titolo citato. Ho citato titolo. Su Libero, sì? La Volpe Mancio, Sarri ha toppato con le frasi omofobe e il mister dell'Inter ne ha approfittato, cavalcando il politicamente corretto per destabilizzare il lanciatissimo Napoli. Cioè, grande dietrologo Luca Telese. No, ma non c'è nessuna dietrologia. Io dico che Mancini è due volte genio, perché credo che ci sia una coerenza nel Mancini che minimizzava nel 2000, come ha citato ieri la Gazzetta dello Sport, e nel Mancini di oggi che è severo. Ho citato due casi. E il Mancini del 2001 che dice al collega della Frocio Gazzetta, Frocio di merda, lo devono tenere. Magari non lo sa perché non si è informato stamattina. No, ho letto tutte queste cose, ho detto per comodità quello del 2000 che minimizzava e che teorizzava la vecchia frase oscena, no? Quello che in campo deve restare in campo, e secondo me Mancini è rimasto segnato da due casi che non può non conoscere perché era in Inghilterra, ovviamente li conosco tutti, ma secondo me Sarri non ne ha capito appieno il valore, quindi il caso Terry degradato alla nazionale che portò le dimissioni di Capello, il caso Suarez, secondo me hanno fatto venire in mente a Mancini che quella linea era sorpassata, che era una cosa oscena come lui ha spiegato a Repubblica, perché c'era pure il gestaccio, c'era questa precipitazione, questo perdere la testa, e che quindi lui usava questa cosa perché la ritiene giusta e perché le è anche utile. Mi sembra una cosa sì, tutto questo sarebbe stato e tutto questo sarebbe stato realizzato da Mancini con tutta l'adrenalina, l'incazzatura, tra il campo e lo spogliatoio e la conferenza stampa. Tutto questo piano deve avere realizzato ma che i tempi non sono cambiati. E non è un piano, cioè allora è una consapevolezza, cioè tu sei cresciuto, maturato definitivamente in un paese in cui quello è tabù, Mentre in Italia uno avrebbe detto, vabbè, intanto quello che è in campo resta in campo e non se ne parla più. Cioè, dopo l'Erasmus in Inghilterra, Mancini ha cambiato il suo pensiero. È legittimo, Io sto dicendo semplicemente che Mancini, se nel 2001 ha detto... È pieno di persone che vanno in Europa e cambiano il loro modo di vedere l'Italia anche dopo sei mesi. No, ma sì. Figurati se uno allenato in un campionato in cui se fai... Cioè, la cosa che più mi ha colpito di quelle vicende è che le società rifiutarono di fare causa, ricorso, cioè di difendere, rifiutarono di fare ricorso dopo lunghe squalifiche, impugnare la sentenza, e addirittura il Chelsea, c'è un lunghissimo strascico tormentato in cui veniva accusato di aver chiesto una sanzione troppo blanda per Terry, cioè di avergli dato una sanzione troppo blanda, cioè addirittura immaginate in Italia una società che viene criticata perché impone una sanzione troppo blanda. Immaginate se Sarri avesse avuto 200.000 euro di multa dal Napoli e ci fosse una pressione mediatica nel dibattito in cui si dice però De Laurentiis è stato troppo buono. Questo è il senso, lo zeitgeist, lo spirito dei tempi che respiri. Quindi può fare tutta l'ironia Giuseppe, ma no, credo che sia una cosa io credo che se giochi all'estero lo sai, anche proprio per una... Per una no, cautela, ma io dico, cioè io devi dico, dire ai tuoi, se fate una puttanata così siete fuori, perché quelle sono le regole del però gioco. Io credo una cosa, Luca, aggiungo io... solo l'ultima cosa, sì. È incredibile che il Napoli abbia adottato come linea difensiva questo doppio pesismo grottesco per cui, sa, se Mancini non è omosessuale, allora è ridicolo, non è più un insulto. Dai, quello non ragazzi, è Napoli però, sono le regole, addirittura regolamento, regole pazzesche. È un mondo completamente diverso in Inghilterra. La vicenda, Terry Bridge. No, voglio dire adesso, però la vicenda Terry Bridge è una vicenda per me incomprensibile, lo dico sinceramente. È una vicenda privata, eccessiva, legata ai rapporti personali, sentimentali, sessuali di due maschi con la stessa donna. Ed è una cosa, una vicenda che ha avuto un eco. Cioè, l'abbiamo vista anche capisce, qui con le corna di Icardi a Maxi Lopez, sì, l'abbiamo capito, vista anche da queste parti. È come se noi in Italia togliamo la fascia di capitano, mettiamo Icardi fosse il capitano della nazionale, gli togliamo la fascia di capitano perché si fidanza con l'ex moglie, con la moglie di una, insomma, veramente. Ma però quello è un compagno, parlando. era un compagno sì, era un compagno, ma voglio dire, adesso se siamo liberali e liberisti, c'è l'insulto. Liberali e liberisti che alla fine una donna, un uomo va con chi gli pare e non è che dobbiamo noi fare i moralizzatori. Vabbè. Poi sogniamo un mondo di, non lo so, se vuoi sognare un mondo però senza ragazzi, allora creare, la cosa è questa, di che stiamo parlando. Molti mi dicono tu dovresti bacchettare, distruggere Mancini perché nel 2001 diede del frocio di merda e oggi invece si lamenta perché qualcuno dà a lui del frocio. Benissimo, Mancini è sicuramente in grandissima contraddizione. Ieri, o comunque quando c'è stata la partita, martedì, nessuno si era accorto o ricordava questo precedente, come altre precedenti. Se Mancini ha dato, lo ripeto, del frocio di merda a qualcuno, e Alessio Daronc o chi della Gazzetta o qualcuno se l'hanno scritto, sarà sicuramente vero, ha sbagliato e ha sicuramente commesso un errore gravissimo. Ora ci deve spiegare se ha cambiato idea, perché ha cambiato idea, eccetera eccetera, perché non è che la cosa può rimanere lì in un'intervista a Repubblica in cui nessuno gli chiede dei suoi precedenti, del fatto che ha minimizzato questo, del fatto che ha minimizzato l'altro. Siccome ha voluto tra virgolette sputtanare un suo collega, e per me ha fatto benissimo a fare la conferenza stampa dopo, ad andare ai microfoni della Rai a raccontare queste cose qui, adesso ci deve spiegare che ha cambiato idea, che dire frocio di merda era una cazzata, che lui andando in Inghilterra, come dice Telese o come dice Pardo, è diventato, come dire, tra virgolette progressista, e per lui dire frocio e finocchio non va bene. Ce lo deve spiegare adesso, non è che può rimanere in silenzio. E soprattutto secondo me bisogna portare questa vicenda dal piano della polemica sportiva, del dibattito Guelfi contro Ghibellini, interisti contro Napoletani, su un piano di idee. E da questo punto di vista, secondo me, poi alla fine ci deve essere una riappacificazione, un chiarimento e un lavoro costruttivo affinché venga evidenziato e sottolineato e sensibilizzato il concetto, cioè che ciò che qualche anno fa magari poteva con più essere, libertà poteva essere semi-tollerato, oggi adesso, non è più tollerato adesso perché non è più, grazie a Dio questo... siamo diventati tutti molto più consapevoli. Perfetto. Posso dirvi un'altra cosa? Questo, migliaia di persone sono state e ancora oggi sono discriminate. Sì, ma però adesso non è questione di migliaia di persone, è questione che certi termini quando si usano per offesa ormai è come dire negro di merda a qualcuno e gli dici frocio, gli dici finocchio, non va fatto. Però il punto è un altro. La questione dell'omertà nel calcio in Italia perché è grave continuare a dire che certe cose non devono uscire? Perché nel passato mi raccontano persone che hanno vissuto il calcio negli anni Ottanta. Guarda, che noi sapevamo che le partite venivano comprate perché nello spogliatoio si dicevano certe cose, ce lo dicevamo apertamente, però nessuno parlava, nessuno diceva nulla. Certo. Cioè, l'omertà nel calcio ha portato al fatto che molte cose, anche gravi dal punto di vista penale, civile, eccetera, eccetera, non sono state mai dette perché c'era questa cosa che, siccome tu sei giocatore, dunque sei mio collega, eccetera, io non lo dico. È la stessa cosa che avviene nelle famiglie, la stessa cosa che avviene nei gruppi chiusi. Tutto questo deve cambiare perché è. Come dire, no? Però posso dire un'altra cosa, non so se ne avete parlato. L'altra cosa per me doppiamente grave, e nel pezzo l'ho scritto, non è che Sarri solo abbia sbroccato, parentesi, è buffo che Berlusconi lo difenda oggi, quando d'estate disse non è da Milan e ora dovrebbe dire ho ragione, ma chiudo la parentesi. La cosa grave è che in quella conferenza stampa lui abbia fatto la battutina ammiccante. Vero, verissimo, verissimo, fredda, Luca. Abbia suscitato la risata e l'applauso, quindi la comunità complice, che si sta dicendo ho detto il primo insulto che mi è passato per la testa. Verissimo. E allora proprio non hai realizzato. No, a me infatti è stato un doppio errore clamoroso, il secondo forse più grave del primo, come ha detto d'altra parte Mancini anche oggi in questa intervista. Allora, quella, però... quella cosa lì, scusami, mi ha ricordato enormemente la famosa conferenza stampa di Cassano a Cracovia, nella quale, quando lui faceva le battute su sono problemi loro, alla domanda dell'amico Presutti dell'Ansa, legata alla presentazione del libro di Cecchi Paone, perché insomma poi lì era stato tirato in mezzo su un argomento, no, sull'intervista, quale, insomma, sull'intervista alla Zanzara di Cecchi Paone, ricordiamo. Ah, ecco, ricordiamo, tutto, non era il libro, tutto nasce dal fatto questo. Che Cecchi Paone dice che in nazionale ci sono non so quanti gay, metrosexual, eccetera eccetera, gli fanno una domanda su queste dichiarazioni di Cecchi Paone, fanno una domanda nel 2012 a Cassano e Cassano se ne esce con quelle cose. E in quella conferenza stampa, non mi ricordo se c'eri Giuseppe, c'era, diciamo la verità, si sganasciavano tutti dalle risate, me le ricordo benissimo, cioè c'era un clima che come se fosse una caserma, c'era un clima come se fosse il bar. 5 minuti dopo tutti a scrivere, ma adesso non è che io me la prendo con i colleghi, però è la verità, quel tipo di clima sicuramente ha in qualche modo reso Cassano molto più tranquillo, molto più sereno nel dire quelle cose che ha detto, per le quali poi si è dovuto scusare mille volte. E ho la sensazione che l'altra sera a Napoli ci fosse lo stesso tipo di discorso. Quindi in questo, anche in questo, secondo me, anche noi, mi ci metto io per primo, dobbiamo essere molto più attenti, perché alla fine noi non possiamo accusare Sarri di qualcosa o Cassano di qualcosa se poi siamo in quella conferenza stampa i primi che minimizziamo o che ammichiamo e che ridacchiamo, eccetera eccetera. Fatemi fermare un attimo per il traffico, pochi secondi. Tutti convocati. Convocati. Ti voglio chiedere una cosa a Telese, è legittimo che Mancini poi faccia il paladino come ha tentato di fare, oppure come qualcuno vorrebbe fargli fare da questo punto di vista, e poi Mancini arcobaleno e poi comunque dopo avergli detto torna ad allenare in Serie C, sembra denigri, pare che sia così. No, tra l'altro nell'intervista di Repubblica di oggi ci sono due elementi nuovi, se vogliamo, no? Quali? Questa cosa qui del gesto. Sì, il gesto di Sarri. Ha animato la penetrazione. Esatto, il gesto di Sarri che insultava e faceva pure il gesto con la mano, tipo vattelo a prendere nel culo. Dunque ci sono degli elementi nuovi importanti in questa intervista. E poi tornatene a fianco al guardialine. E poi Mancini avrebbe detto tornatene ad allenare in C, eccetera, eccetera. Sembra elementi di questa intervista. Sì, ma non è crudele che poi, a differenza di quanto pensa Cruciani, vada in conferenza stampa e distrugga comunque l'immagine di un collega che se lo meritava, però a me fa pensare che dica questo non deve più allenare in Serie A, questo deve vergognarsi, eccetera eccetera. A me lo stai chiedendo? Qua c'è una sorta di complicazione, cioè c'è un conflitto di interessi. Cioè, nessuno può dimenticare che... Ma proviamo a dimenticare il conflitto di interessi. Il fatto che sono in corsa per lo scudetto. Di Torino, a me mi ha molto colpito quell'immagine. Appunto, è questo voglio dirti. A Sarri è successo di essere espulso. Quell'immagine dei due massaggiatori che facevano la staffetta dietro la panchina, da lui alla tribuna, la squadra comunque disorientata, secondo me sono un'altra cosa che è sullo sfondo. Cioè, di tutta questa vicenda tu hai una pistola puntata su un tuo diretto concorrente, però l'errore è di Sarri che si è messo in questa questo posizione è indubbio. Con la questo seconda offerta stampa. Ce n'è un'altra ancora sullo sfondo. Trovo incredibile che oggi escano sui giornali, però questa è prodotta da quell'idea difensiva, tutta una serie di cose un po' limacciose, che cosa ha detto la moglie di Mancini quando si è separata, ma Mancini, tanto è vero che lui ha dovuto difendersi in Repubblica, non è che in fondo è davvero omosessuale, quindi questa cosa vabbè, lo colpisce questo, per questo ma motivo. Ma questa è, è normale, sul web escono queste cose, Mancini si è sentito offeso perché è omosessuale, ma insomma questi sono, come dire, dettagli. Lui poi nell'intervista a Repubblica dice chiaramente no, anzi credo che si aspettasse questa domanda. Forse ha anche voglia di rispondere. Aveva voglia di rispondere a questo, come è giusto che sia, naturalmente. E dice: io, a me piacciono solo le donne. Però no, trovo ridicolo che se uno dice Frocio Finocchio diventi una sanzione più pesante solamente se sei gay. Cioè, questo lo trovo un po' paradossale. Ho fatto degli esempi: se uno dice fottuto negro e a un bianco non è più un insulto, o se dice. Vabbè, tutto quello che sappiamo, dai, è senza senso. Però sicuramente il conflitto di interessi fra il competitore e il moralizzatore c'è. Sì, conflitto di interessi c'è, però io se, no, ecco, il moralizzatore Mancini, però no. Interessi, sì, però io la figura, ecco, tutto quello va benissimo. È anche un confronto tra professionisti e tra individui, Sì, sì, va bene, però il fatto che Mancini diventi arcobaleno, diventi il paladino in questa intervista del mondo gay, ha offeso migliaia di persone, adesso daranno la cittadinanza onoraria di non so quale paese col sindaco gay, sarà invitato da Luxuria al Gay Village, eccetera, eccetera. Ci sarà sicuramente tutto questo cascame. Io questo francamente lo trovo ridicolo. Cioè, lui si è, tra l'altro, un elemento secondo me nuovo potrebbe essere un altro, adesso non so se voi lo sapete, se forse Pierluigi lo sa, ma Mancini in realtà, e questo forse potrebbe spiegare la sua irritazione, se è genuina come io credo e non ci sia dietro, come pensa invece il perfido Carlo, no, la volontà di distruggere solamente Sarri, cioè Mancini è diventato molto religioso. Cioè, da un po' di tempo a questa parte è diventato un grande lettore del Vangelo, la Bibbia. È uno che si nutre molto di religione, ma non lo sto dicendo ironicamente, ma perché lo so, perché me l'hanno detto. Allora, questo elemento qua potrebbe essere un elemento nuovo. È un Mancini comunque diverso quello che si vede nelle conferenze stampa rispetto a un Mancini di qualche anno fa. Il cambiamento dell'uomo potrebbe spiegare la sua irritazione verso queste frasi. E sicuramente non è lo stesso Mancini, magari del 2001, quando diceva Frocio di merda al giornalista della Gazzetta. Ma assolutamente. E poi io credo che veramente l'esperienza inglese l'abbia cambiato. Io veramente ho fatto l'Erasmus in Inghilterra 20 anni fa. Io credo che è un altro mondo. È un altro mondo. Non è che non si insultino in Inghilterra. Ma assolutamente no. Faggot. Però com'è che si dice faggot? Fucking faggot. Tu che sei. Faggot. Si può dire in inglese, lo possiamo dire adesso. Dovremmo utilizzare certe parole in inglese. Faggot. Com'è che si dice fucking? Può dire fucking twat. Oppure wanker, classico wanker, una delle. Vabbè, siamo Radio Confindustria. Uno degli insulti più classici in Inghilterra è wanker, che vuol dire segaiolo. Quindi. Wanker. Però se lo dici wanker fa figo in Italia. Wanker, se lo dici wanker, faggot. Mancini, un po' John Wayne. Secondo me non lo capiva. Secondo me Mancini, nonostante il suo inglese, non lo capiva faggot. Se gli diceva. Però, faggot. Insomma, diciamo che c'è molta più attenzione anche, per esempio, su tutte le tematiche legate al razzismo. C'è un'organizzazione che dagli anni 90 che si chiama Kick It Out. Che di fatto ogni volta che c'è un minimo episodio di razzismo interviene, quindi sono nettamente più avanti. Devo dire la verità, anche poi a livello interpersonale, per esempio il sexual harassment, che sono tutte le allusioni di carattere sessuale anche fra uomo e donna sul posto di lavoro, sono molto più rigide rispetto all'Italia. Sì, cioè, possiamo prendere anche gli Stati Uniti, dai, tu lo sai benissimo, Pierluigi, Stati Uniti, adesso senza, insomma, il caso di Clinton è un caso clamoroso. Io adesso non mi occupo di politica, però io credo che in Italia ci avremmo fatto una risata sopra, lì è stata vissuta come e ne abbiamo vicenda, fatte di risate sopra in Italia, ne abbiamo fatte alcune. Anzi, forse se mi passi ancora la battuta, in qualche caso avrebbe anche contribuito, diciamo, al mito del presidente virile e sexy. Quindi, voglio dire, sono culture diverse. Quello che ci viene richiesto, secondo me, da questa circostanza è capire che dietro a una parola che, secondo me, Sarri, questa è la mia opinione, ha usato non perché è omofobo, ma perché toscano, abituato ai campi di periferia, una certa cultura allo spogliatoio, e l'ha usata in un contesto completamente sbagliato, quella frase è offensiva, è gravemente offensiva, e quindi la prossima volta non la dirà. E adesso ha l'obbligo, se se la sente ovviamente, se la pensa in questo modo, e penso che sia così, di chiedere scusa in ginocchio in tutte le lingue del mondo. Sì. E secondo me, dopo questa cosa qui, Mancini farà bene a stringergli la mano, perché poi alla fine, esatto, l'obiettivo, cioè questa deve diventare un'occasione non per dividere gli interessi dei napoletani, ma per crescere tutti insieme. Vabbè, e crescere, capire che ci sono problemi e cose importanti che ci sono, che dei, ci adesso dei limiti oltre i quali, esatto, non puoi più andare. In un minuto a testa vi chiedo invece se effettivamente questa diatriba potrà avere delle incidenze sul corso del cammino delle squadre. Ma certo, Napoli è una piazza molto sensibile, l'allenatore conta molto in questo momento nel Napoli, certo poi c'è Higuain che non gliene frega un cazzo di Sarri e della, cioè non è che si deprime perché il suo allenatore insieme viene accusato di omofobia, però qualche cosa Sarri sarà squalificato in Coppa Italia, se in sarà Coppa squalificato Italia, non sì, in campionato, altra follia secondo me. Assoluta, e qualcosina potrebbe, ma insomma siamo a livelli impercettibili quasi, cioè, livelli impercettibili, sì, cioè ripeto, non si può adesso dire come può essere danneggiato il Napoli. Certamente è una cosa che a livello di immagine per il presidente soprattutto non fa piacere, e per Sarri pure, secondo me, Luca? Io credo che resterà un tallone d'Achille, perché la botta di Mancini comunque colpisce Sarri, possiamo dire, nel suo unico punto debole. Non a caso era l'argomento Berlusconi ai tempi della trattativa con il Milan, non a caso è la cosa che gli rifacciavano alle prime giornate quando era in difficoltà. Quindi Sarri è stato colpito nel suo punto debole, che è l'accusa di essere un provinciale e di non essere all'altezza di, per un Napoli che si prepara a sbarcare nelle coppe, che sta giocando una competizione che l'anno prossimo potrebbe essere in Champions, questo è il tallone d'Achille. Beh sì, certamente la cosa ha fatto il giro di tutto il mondo, e Sarri, no? Sarri verrà ricordato se mai dovesse fare l'anno prossimo la Champions, ma anche adesso in Europa League per esempio, no? Dove Napoli... Come l'uomo che ha detto Froccia Finocchio è un suo collega, su questo non c'è dubbio. Sì, assolutamente, sulle incidenze sul campionato secondo me dipende molto da Genova, nel senso che poi il calcio ha una capacità straordinaria di essere veloce, di essere appunto liquido. Se il Napoli fa una bella partita, Genova vince, sì, sì, secondo me tutti in cavalleria, questa cosa finisce, sì, dal punto di vista tecnico. La macchia sicuramente rimane su Sarri, e sono d'accordo con Telese quando dice che è l'esatto contrario dell'immagine, cioè tutto il positivo dell'essere un outsider che avevamo celebrato fino ad oggi, e quindi la gavetta, il figlio dell'operaio dell'Italsider, il progressista, quello con la tuta, adesso emerge il nero, adesso emerge l'anima nera. Invece la vera domanda Sarri è: un allenatore un po' più smaliziato, un po' più abituato alle telecamere, alle grandi partite, alle grandi squadre, è una certa, la risposta la conosci anche tu, la risposta forse la conosci anche tu, non l'avrebbe, no, fatto. La risposta è no. Grazie Giuseppe. Ciao ragazzi. Grazie Giuseppe Cruciani. Pier, ci sentiamo domani con te. Grazie Luca Telese. Ciao Luca. Ciao. Non c'è il GR, che oggi non va in onda per ragioni sindacali, è in corso l'assemblea. Ci sentiamo tra poco. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono le 15. Questa edizione di GR24 non va in onda perché è in corso un'assemblea della redazione. Il prossimo giornale radio alle 16. Si ricomincia. Tutti convocati. C'è da fare complimenti alla Lazio, perché il primo tempo è stata una bella partita, equilibrata, La Lazio ha tenuto un ritmo molto alto, soprattutto nella prima mezz'ora. La Juventus nella seconda parte della partita, direi, ha continuato, ha alzato ritmi, direi abbiamo fatto una partita solida, non abbiamo concesso praticamente neanche un tiro alla Lazio, soltanto nel primo tempo c'è stata una mezza ripartenza di Keita e poi abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla. E c'è da fare complimenti ai ragazzi per questa vittoria, non era semplice, e ora ci apprestiamo alla partita di domenica con la Roma. La Juventus deve vincere sempre, quindi ogni volta che scendiamo in campo dobbiamo sputare il sangue per questa maglia, perché i tre obiettivi dell'anno vanno perseguiti, e per spingere fino alla fine servirà una grandissima squadra, non soltanto negli 11 ma anche chi è in tribuna e in panchina. Sarà una bella semifinale, vedere come è stato un bel quarto di finale stasera, come è stato un bell'ottavo con il Torino. Per arrivare in fondo bisogna affrontarle, e ora penseremo innanzitutto alla partita di domenica e poi penseremo alla partita di mercoledì con l'Inter. Dunque, la solita Juventus era all'Olimpico, passa sulla Lazio e avremo un infinito eterno duello lungo tre partite dal territorio di Coppa Italia campionato tra Juventus e Inter. Così andata. Per inciso, godo come un matto nel vedere il gol assegnato con la tecnologia, con la Goal Line Technology. Seconda volta che succede, il primo caso era quello di Pepe in Chievo-Roma, secondo pure molto difficile da decifrare ad occhio nudo, questo gol di Rick Steiner. Ma godo non per la Juventus o per il Chievo, godo perché questa sì è una innovazione tecnologica che ha fatto davvero un gran bene al calcio, questa sì. Moviola, non ve ne parlate se volete, se mi volete fare un favore. Roberto, Milano, voglio dare la parola agli ascoltatori che insomma nell'ambito della discussione molto accesa con Pardo, Cruciani, Telese, eccetera, ho un po' trascurato, me ne scuso. Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di questa opportunità. Proprio su questo argomento volevo intervenire, perché mi sembra che si stia trattando questa cosa in modo forse non correttissimo. Mi spiego, se noi tutti, voi, tutte le persone civili, stanno cercando di far passare il messaggio che l'omosessualità è una cosa assolutamente normale, non c'è nulla di strano, non bisogna discriminare, e concetti logici come questi, a questo punto non possiamo però dichiarare offese certe cose, perché altrimenti alimentiamo questa sensazione che sia una cosa sbagliata, una cosa non giusta, una cosa che è da nascondere. Quindi secondo lei no, deve essere derubricata dal capitolo, dalla pagina degli insulti. Le dirò di più, secondo me andrebbe sanzionato Mancini, perché Mancini quando gli chiedono ma lei allora in qualche modo ha fatto outing con le sue dichiarazioni, lui subito si smarca e dice no, momento, io gli avete capito male, io a me piacciono le donne. Sì. E lo dice, come dire, non qualificatemi per quella cosa. No, ma Mancini semplicemente dice non lo sono, non sono gay, a me piacciono le donne. Ma lo precisa con una certa enfasi, come dire, non accostatemi, che per me è stata... Roberto, io non leggo onestamente questo nelle parole scritte... e pronuncia scritte su Repubblica e pronunciate da Roberto Mancini, ha semplicemente detto, a domanda ha risposto, insomma, senza particolare enfasi, mi pare di notare. Poi quanto al resto, insomma, quelle parole sono state purtroppo pronunciate in tono offensivo, e al momento se uno ti dice quelle cose in un momento di concitazione con rabbia, ma facciamo la genesi, però era chiaramente un'offesa voluta. Maurizio, Cremona, buongiorno. Cioè, o sì. C'era comunque la volontà di offendere con quelle parole? Dica. Sì, buongiorno. Sono Maurizio. Sì. Pronto? Sì, assento, sì. Maurizio. Sì, ecco, niente. No, io volevo fare solo un ragionamento sempre sul caso Sarri-Mancini e dire che in fin dei conti quello che è accaduto, cioè le offese rivolte a Mancini, è una deriva secondo me poi di quello che è il mondo del calcio, cioè nel senso che negli stadi tu entri negli stadi, cioè non è che vige un clima di di rispetto in linea di massima, sappiamo, conosciamo quale sia la situazione. Quindi questa non è altro che una deriva. I protagonisti in questo caso, signor Sarri, evidentemente si è sentito un po' trascinato, cioè lui fa parte comunque di un calcio che è, beh, che però, non è pulito, che non è rispettoso. Sì, le faccio notare, però non so se c'è ancora Maurizio, però volevo fare notare, sempre su Repubblica di oggi, dove è pubblicata l'intervista a Mancini, io ho letto il corsivo di Gabriele Romagnoli, che fa notare come insomma è un po' una generalizzazione del nostro modo di parlare in ogni ambito, il che non giustifica nulla, però non è un aspetto, la trivialità, l'uso di insulti, epiteti e la volontà di aggredire verbalmente è qualcosa che è diffuso un po' ad ogni livello, dalla politica in giù, il che non scusa nessuno. Piuttosto io non sono d'accordo con Giuseppe Cruciani quando dice che il campo è un ambito a sé stante. Secondo me il campo è un ambito a sé stante, perché non è un ufficio, non è una banca, non è una redazione dove pure capitano gli scherzi. È un luogo in cui si gioca, c'è una certa componente di emotività, di adrenalina che va tenuta sotto controllo, nel quale bisognerebbe essere più lucidi, eccetera, eccetera, però non possiamo prescindere da questa considerazione. Claudio Ascoli Piceno, buongiorno. Sì, buon pomeriggio a tutti. Dica. Io adesso piacerebbe parlare di Juve, però lo faccia. Sì, però una piccola considerazione. Io sono pienamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore. Per me è Mancini che deve essere multato, perché è chiara la sua strategia di destabilizzare un concorrente. Multato con quale causa? Ha multato perché logicamente ha buttato sempre tra virgolette in senso lato, cioè ha buttato fango, come giustamente ha detto lei in una conferenza stampa, su un suo collega che tra l'altro ha fatto la gavetta, a differenza di Mancini, che sappiamo come è arrivato ad allenare. La Fiorentina, no? Lei se lo ricorda come? Ma sì, mi ricordo tutto, il che non giustifica, cioè, o meglio permette di spiegare soltanto una cosa, che mentre Mancini proprio per questo è abituato a certe pressioni, a certe luci, agli occhi di mille telecamere, al fatto di dover sopportare anche il peso di un primato, di una squadra forte e potente, eccetera, eccetera, Sarri è come se fosse esploso, come se fosse uscito come un lapillo da un vulcano che lo imprigionava. Il che non scusa, però io credo che insomma anche la pressione su un allenatore che questi livelli così alti non li ha mai vissuti possa avere un'influenza, possa aver avuto un'influenza in quello che è successo di triviale. Antonio, Bologna. Salve, mi Antonio Francisco. Sì. Io Bologna e sono de Madrid, ma origine napoletana. Sì. L'allenatore del Napoli è sicuramente usato termine offensivo, ma il signor Mancini, allenatore dell'Inter, si è comportato male. È come dire, una ragazzina che corre dalla mamma per dire: mamma, mi hanno offeso. Uh-huh. Poi volevo dire che questa è storia, è un velo pietoso di ipocrisia sulla squadra di Napoli, che è squadra più bella di gioco d'Italia. Sì, con grandi campioni come Higuain. Certamente. Se parla solo di questa situazione quando ci sono tante altre cose, il calcio italiano è malato. Sì. È molto malato di tanto perché se vedono tante però Antonio, stiamo parlando dell'ultimo malessere, cronologicamente e per ragioni anche di cronaca, quindi malato da moltissimi punti di vista. Che il Napoli sia una squadra meravigliosa, la migliore del campionato secondo me in questo momento, probabilmente con la Juventus non lo mette in discussione nessuno. Stiamo parlando di un altro episodio e io mi auguro, come chi mi ha preceduto, cioè Cruciani, Telese e Pardo, mi auguro che abbiano ragione e che tutto questo non influisca in qualche modo sulla stagione. A proposito di Espagna, Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Senti, dammi anche una tua lettura da lì, visto che il caso è stato ripreso dai giornali di tutto il mondo. Esatto, beh, la mia lettura è questa. Diciamo, mi stupisco che si usi la parola atrocio ancora per insultare nel 2016. Sì. Questo già mi sembra un po' strano. Sì. Io avrei usato altri termini, sì, per anch'io. Insultare. Seconda cosa, mi sconvolge il fatto di questa cosa che le cose devono restare in campo. Ecco, lì veramente non ci siamo. Non so, io la vedo malissimo, perché se è così, adesso tu vai a una scuola calcio, no? E gli dici al bambino, guarda, se te la prendi parecchio, se sei parecchio arrabbiato, no, quello gli dice, quello gli dici pros, quell'altro gli dici negro, magari giocano con le bambine, no, gli dici va a fare la lavatrice, però tutto resta in campo, vale. Poi dopo l'importante, poi dopo esci, tu c'hai gli amici froci, c'hai gli amici negri, stai con le donne, va tutto bene. Se passa questa omertà... No, ma questa linea mi sembra ormai ampiamente superata, ma non tanto nella mentalità quanto nei fatti. Cioè, i panni sporchi vengono... Sì, però la mentalità vengono... no, però, Carlo, perché... Una mentalità di qualche tempo fa, di cui può essere portatore, ad esempio, lo stesso Sarri, che è abituato ad un altro calcio, ad altri... Io ho visto anche in giro, tante reazioni sono state così, cioè... Dice, Mancini non si doveva lamentare, le cose restano, cioè, sono stati in tanti a prendere questa strada, e per me questa è una strada intollerabile. Il calcio no. È un grande spettacolo e come tale va trattato, e certe cose se non le cose dicono, escono pure meglio, però io continuo a pensare che insomma sia stato insomma a non condividere il modo in cui Mancini è salito sul palco e ha scelto di questa è una tendenza molto, cioè, non so come dire, che cosa doveva fare, vuol dire, aveva quel momento lì, era decisamente sconvolto, e comunque era, diciamo, o anche irritato, toccato, quello che usiamo il termine che vogliamo, e per me ha fatto bene. Bisogna parlare, bisogna tirare fuori le cose, non c'è un momento giusto o sbagliato. In quel modo però ha messo sulle spalle di Sarri una croce che si porterà per tutta la vita, con sua colpa, con sua colpa. No, non si può poi fare sempre della dietrologia, dire che lui no puntava più in alto, ho letto qualcuno dice no, Mancini è astuto. Ma che astuto? Cioè, voglio dire, le cose vanno denunciate e Sarri si prende le sue responsabilità. Se il Napoli si sfascia per colpa di questo motivo qui, è peggio per il Napoli o peggio per Sarri, cioè si doveva pensare prima. E spero che non succeda, sì. Però nel momento in cui fai una cosa del genere assumi dei rischi, ed è giusto che sia così, se no è tutto impunito. Cioè, noi abbiamo ancora gli ultras in Italia, ci abbiamo certo. In Italia. Le scuse non sono una gomma che cancella, però possono essere anche utili. No? O il sì, parlare bene, può essere anche utile, così, o il parlare può essere anche utile. E poi Sarri ha peggiorato le cose. Abbiamo già discusso in conferenza stampa successiva in cui ha cercato di buttare sul goliardico. Comunque Filippo, arriviamo un attimo a noi, perché Pepito Rossi torna in Spagna, al Levante, profonda Spagna, inteso come profondissima bassa classifica. Sono ultimi, sì, un disastro, però è a Valencia, quindi vicino a dove viveva lui, a Villarreal. Sì, purtroppo dove è stato, dove un po' è nato, dove sono nati tutti i suoi problemi, perché a Valencia è stato operato al ginocchio e il dottore ha fatto un piccolo errore, e secondo me Giuseppe sta ancora pagando questo problema qua di tanti anni fa ormai. Certo, la realtà va bene, perché comunque in Spagna, insomma, il Levante è una società seria e ha bisogno di un attaccante, lui ha bisogno di giocare, ci sta. E quindi ha accettato questa proposta, andrà in prestito, poi la Fiorentina potrà riportarselo a casa. Sì. Tanto io sono d'accordo sul fatto che questo giocatore debba ovunque possibile andare a giocare, perché bisogna testare il ginocchio, capire a che punto stando in panchina facendo allenamento non lo testerai mai, quindi no. Questa era una scelta quasi obbligata. Intanto notizie di mercato non riguarda la Spagna, ma Zárate, che dall'Inghilterra torna in Italia, va alla Fiorentina, e questo è ufficiale. Ma soprattutto c'è un'altra notiziola che ma da niente, non so neanche se dirvelo. Zárate della Fiorentina in viola per 2 anni e mezzo. Questa è la notizia vera, con Pepito Rossi che va al Valencia, e poi c'è Neymar che va al Real Madrid. Ma questo conta poco. Allora, questa è diciamo, una notizia che ha dato al Primer Talk, che no, dopo tutti i convocati e l'altra tradizione a cui ho la fortuna di partecipare. Seconda sera. In realtà loro hanno rivelato che a Zurigo, diciamo, durante la giornata del Pallone d'Oro, c'è stata una riunione in albergo. E tra Neymar, un rappresentante del Real Madrid, alcuni amici di Neymar e via dicendo. Dopodiché finisce così, che il Real Madrid dice no, ma è Neymar che cerca pubblicità perché così rinnova il contratto col Barcellona e può chiedere più soldi, diciamo ipotesi che ci sta. E invece Neymar dice no, sono loro che mi vogliono a tutti i costi, ipotesi che pure ci può stare perché chi non vorrebbe Neymar? Appunto. E io la vedo come una manovra. Una manovra diversiva. È chiaro che Real Madrid sta al gioco, però è altrettanto chiaro che Neymar batte cassa e già 6-8 mesi fa c'era stato qualcosa di simile. Sì. E Neymar adesso deve rinnovare il suo contratto e vuole fare un sacco di soldi, anche perché adesso secondo me gli arriva una bastonata dal fisco, tanto sì, a Barcellona come allo stesso Neymar. Non dimentichiamoci che a Neymar gli hanno bloccato non so quanti decine di milioni, praticamente. Sì. E per cui ha bisogno di soldi e allora si sta muovendo e i brasiliani sono così, questa sì, è la realtà. Certo, Neymar al Real Madrid. Secondo me sarebbe anche un errore perché comunque al Barcellona sta bene, sta crescendo, è chiaro che c'è Messi, ma tanto Messi ci sarebbe comunque, e Messi lo aiuta anche. Supererebbe in tromba la vicenda Figo che fece quella stessa strada con tutte le polemiche che ne seguirono, forse sarebbe ancora più rumorosa la storia. Beh sì, sì, quella fu clamorosa perché Figo si comportò ancora peggio, insomma, se vogliamo. Però sì, sarebbe clamoroso perché comunque sarebbero poi cifre folli. Per cui sì, non lo vedo tanto. E poi attenzione, bisogna sempre pensare vedere se Real Madrid potrà fare mercato, appunto, perché c'è quella cosuccia di cui abbiamo parlato la settimana scorsa che è ancora lì sospesa. Io credo che farà mercato quest'estate e credo che farà anche un grandissimo mercato, perché poi magari dovrà fermarsi per le due sessioni successive. Filippo, un'ultima cosa, ma intanto al di là di Neymar in arrivo a Real Madrid è Zizoumania, no? Sì, assoluta, cioè, euforia assoluta. Ieri sono andati a cena tutti i giocatori della squadra e sono venuti anche Kroos e Bale, che di solito non vanno mai. Invece mancavano i due francesi, Benzema e Varane. Tanto sì, un Benzema sempre più incupito. Oggi mi ha postato un messaggio stranissimo che sinceramente non so interpretare, al volante, intanto col telefono al volante, che è già una cosa che non dovrebbe fare. Si vede un gol, c'è un rapper che canta, non so, un messaggio troppo criptico. Vabbè. Mi dispiace, non posso dare grandi indicazioni, però Zizoumania assoluta, ha coperto tutti i mali, va tutto bene. Adesso c'è il Betis, faranno altri 5-6 gol domenica e niente, perciò è la giostra gira. Adesso è solo euforia, vediamo poi quando ci saranno partite più serie come sarà la squadra. È chiaro che se questa è una squadra forte comunque sulla carta, se decidono di dargli una mano, di rientrare in difesa, di essere solidali, come piace dire qua in Spagna, è chiaro che Real Madrid ha delle potenzialità enormi. Eh sì, poi il carisma di Zizou eventualmente può fare il resto, poi aspettiamo sfide più probanti. Grazie Filippo. Esatto. A voi. Ciao, un abbraccio. Filippo Maria Ricci. Mi ha raggiunto un altro Ricci che è Dario, tra cui poi in questa puntata tra Froci, Finocchi e Ricci, Sulti e Pattume assortito, parleremo anche di un'altra bella pattumiera che si profila, si riempie sempre di più di quella del tennis su cui Dario Ricci sta lavorando. Racchette infangate, come la chiamano? O racchette pulite, ma questa l'abbiamo già sentita, meglio racchette infangate. Allora, voglio invece farvi sentire un'altra cosa. Ieri Ettore Messina, il più bravo allenatore italiano, uno dei più bravi allenatori d'Europa e del mondo, è stato investito ufficialmente la carica di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Basket. Useremo ancora le strutture di Folgheria, dove ci siamo trovati molto bene, dove ci hanno sempre accolto con grande efficienza negli ultimi anni. Dopodiché, quando si riuniranno tutti quelli che giocano i play-off, le fasi finali dei play-off in Italia, in Turchia, in Grecia e speriamo nell'NBA, quindi verso il 18 di giugno si aggregheranno tutti, dovremmo in questo momento se ne sta parlando fare un torneo a Bologna e quindi faremo qualche giorno di allenamento a Bologna e poi ci trasferiremo a Torino, faremo allenamento lì, faremo lì un'ultima amichevole e poi giocheremo il preolimpico. Poi speriamo di aver da programmare anche un viaggio dopo quello. Speriamo tutti di dover programmare un viaggio dopo quello che ci porterà che dovrebbe portarci nelle speranze a Rio de Janeiro in Brasile per le Olimpiadi. Massimo Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo tornare al discorso di Sarri e Mancini. Cioè, io penso che ormai io ti ascolto spesso e ormai... Allora le do una notizia che è appena uscita da quella che aspettavamo. Il giudice sportivo ha squalificato Maurizio Sarri per 2 giornate in Coppa Italia e 20.000 euro di multa. Questa è la sanzione a Sarri. Dica Massimo. Sì, ecco, dico che se ne sta parlando ormai anche troppo per una fesseria, tra virgolette, perché alla fine Mancini ha fatto bene, ha fatto male. Secondo me 60 ha fatto bene e 40 ha fatto male. Il 60 ha fatto bene per il semplice motivo che, visto che il calcio non è che faccia vedere super cose al di fuori del campo, e dunque se un comportamento fosse un po' più, tra virgolette, educato tra le persone che sono al comando di queste squadre, sarebbe meglio, secondo me. Questo è il dubbio. Dopo... No, non secondo lei, è oggettivo. Sì, chiaro. Dopo, se Sarri, questa è una cosa mia personale, si togliesse quella tuta e si vestisse in una maniera un po', visto che i napoletani ci tengono anche molto all'immagine propria, sarebbe anche meglio, ecco. Ma la tuta, guardi, io la tuta gliela lascerei, darei una ripulita invece al vocabolario di Sarri, e questo mi sembra indifferibile. Allora, 5.000 euro di multa a Mancini per atteggiamento intimidatorio nei confronti di Sarri. Quindi questa è la sanzione completa prevista dal giudice sportivo. Lo ripeto, 2 giornate di stop in Coppa Italia, Maurizio Sarri, 20.000 euro di multa. 5.000 euro di multa a Mancini per atteggiamento intimidatorio nei confronti del suo collega. Così è. Ciao Dario Ricci. Ciao Carlo. Adesso mi racconti dettagliatamente cosa sta succedendo in quella fogna che sembra essere diventato il tennis mondiale. Beh, insomma, lo sappiamo che a mettersi d'accordo su una partita di tennis, poi tutto sommato, avendo l'intenzione, non è poi difficilissimo. Altro non serve il portiere, il difensore, ecco, il libero, ecco, l'attaccante. E quindi, diciamo, molti passaggi intermedi sono semplificati, ma certo quello che hanno evidenziato nella loro inchiesta giornalistica, perché per ora l'inchiesta giornalistica si tratta, la BBC e il sito americano BuzzFeed News, è qualcosa di clamoroso, no? Perché di fatto hanno analizzato tutti i dati a disposizione sulle giocate relative agli ultimi 10 anni del tennis mondiale, e che cosa hanno denunciato nella loro inchiesta? Che di fatto non si tratta di un sistema puntiforme e isolato, ma di una vera e propria rete che addirittura coinvolgerebbe 16 dei primi 50 giocatori nel ranking, o almeno 16 giocatori che negli ultimi 10 anni sono stati tra i primi 50 del ranking, anche alcuni finalisti e vincitori di Slam, di tornei dello Slam, e vi sarebbero anche degli incontri del Roland Garros e di Wimbledon. Truccati. Alterati con una rete internazionale di scommesse che avrebbe nella Russia e nel nord, e in particolare nel nord Italia e in Sicilia, i suoi epicentri. Ecco, che cosa manca a questa inchiesta per essere completa? Beh, i nomi, chiaramente, perché si è parlato di due liste molto corpose, una blacklist con giocatori che insomma, per cui ci sarebbero prove di coinvolgimento effettive, e di una lista grigia che è quella dei sospetti su cui invece le prove ancora non sono complete, l'attività istruttoria non è completa. Beh, diciamo che alcuni nomi li ha fatti il PM di Cremona, Roberto Di Martino, che conosciamo bene. Ha detto che comunque alcune della documentazione che lui ha messo a punto anche sul tema tennis, e lo ricordiamo, due nomi italiani importanti, Staraci e Bracciali, è stata trasferita a queste testate. Allora ecco che sono usciti fuori i nomi di Murray, Tsongab, Wawrinka, nomi eccellenti, non come responsabili, ma come collettori in qualche modo nel momento in cui sono in campo di questi flussi particolari. Lo stesso Djokovic ci ha detto che nel 2006 il suo entourage era stato avvicinato da qualcuno di questa rete e respinto con perdite, ma insomma tutto quello che emerge... E anche lì, se così fosse, ci sarebbe da pensare, perché... Insomma, nel 2006 essere... non era lo stesso Djokovic di oggi. È un reato, omessa denuncia. Infatti, e poi insomma questi se li coltivano da piccoli, nel senso vedono Djokovic che bravino è già nel 2006, cominciamo a farcelo subito amico, no? no? Di fatto che cosa abbiamo fatto noi nel nostro piccolo? Abbiamo sentito Francesco Baranca, che è il segretario generale di Federbet, questa rete transnazionale anti match fixing che è nata nel 2010 in Europa. Allora vi faccio sentire un passaggio proprio relativo a quella zona opaca e grigia tra i controllati e i controllori, perché il primo ente che riceve queste segnalazioni è l'ATP, che anch'essa ha creato un suo integrity board, no? Sì. Ma che fa questo integrity board quando arrivano queste segnalazioni? Senti un po' che ci dice Baranca. Noi abbiamo affrontato il problema del tennis soprattutto negli ultimi tempi, da quando collaboriamo con alcuni bookmaker dell'est Europa che ci forniscono praticamente segnalazioni quotidiane su partite che sono palesemente pilotate. Sto parlando di futures e challenger, dove la qualità e la quantità del trucco ha raggiunto livelli mostruosi. Arrivano a cercare di pilotare chi farà il break al quarto gioco dopo essere stato 40-0, oppure giocate che provengono tutte dalla stessa zona di provenienza di una tennista. Quando noi ci rivolgiamo all'ATP e diciamo guardate, è successo questo, la risposta, un po' per mancanza di possibilità di andare a fondo, perché comunque l'ATP non è la polizia, e un po' per cercare di proteggere il sistema, è sempre la stessa, è ma no, controlliamo bene, ma non possiamo fare nulla. E a quel punto l'unica soluzione che noi abbiamo già sperimentato con il calcio è rivolgersi alla magistratura ordinaria, ed è quello che faremo anche con tutte le partite di tennis. Trapereremo un dossier, ci rivolgeremo alla magistratura ordinaria. Eh sì, quindi Federbet si rivolgerà alla magistratura di Barcellona. E qual è il senso di questa denuncia? Che di fatto, se si vuole far chiarezza, serve un ente terzo. Certo. Che esso sia la magistratura, chiaramente è quello più in grado, per gli strumenti che ha e le risorse, di fare le indagini più approfondite. Ma comunque i controllori non possono venire nello stesso ambito dei controllati. Questo è chiaro. È una storia che non è così solo nel tennis, no? No, Dario, per nulla. Capito. Io ti ringrazio, grazie, tieni monitorata la situazione e vediamo fino a quale livello la spazzatura, alla prossima puntata, riuscirà ad arrivare. Grazie Dario Ricci, Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in relazione. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.